Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Il fatto che abbia vinto Van der Velden è certamente una notizia positiva. Così dice, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, il nostro ministro degli esteri Gentiloni, perché oggi c'è stata questa specie, per qualcuno di sorpresa, per qualcun altro forse meno, di vittoria per quanto riguarda le presidenziali austriache del leader ecologista Van der Bellen. Sapete che al primo turno in Austria delle elezioni presidenziali c'era stata questa sorpresa del trionfo del leader dell'ultradestra o dell'estrema destra, Höfer, come lo vogliamo chiamare, insomma poi cercheremo di chiarire. E invece poi oggi nel secondo turno c'è stata la vittoria appunto del verde Van der Bellen. Ne parleremo in modo approfondito, cercheremo anche di dare un identikit di questo economista, ex docente, 72enne, europeista convinto, quindi insomma probabilmente per l'Austria le cose dovrebbero andare in una direzione un pochino diversa, e non solo per l'Austria, visto che appunto il ministro Gentiloni dice è un sospiro di sollievo, dal suo punto di vista dice per noi l'Italia, e che abbiamo un rapporto così vicino con l'Austria, ma anche per l'Europa, perché sapete che l'altro leader intendeva andare avanti con il muro al Brennero e con una politica anti-immigratoria che avrebbe messo comunque in difficoltà il resto dell'Unione Europea. Insomma, tantissimi comunque gli argomenti anche questa sera, a partire da questo, ma poi come sempre qui Effetto Notte si ricomincia la settimana con una grande varietà di notizie. Io intanto, come sempre, tra poco ve le riassumo in un quadro della giornata, poi cominciamo a entrare nel cuore degli argomenti. Tra i temi che vi sottoporrei questa sera parte la possibilità che davvero Trump negli Stati Uniti possa vincere alle presidenziali, perché comincia a esserci una preoccupazione, almeno per i detrattori, che vedono salire progressivamente e per qualche sondaggio addirittura sarebbe sopra Hillary come voti, insomma, nei sondaggi per il momento, e quindi è una possibilità, un'eventualità che anche a voi potrebbe far paura, oppure ritenete che Trump possa essere un buon presidente degli Stati Uniti. Poi l'altra cosa che volevo sottoporvi per i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte, oppure al 349-238-6666, è questo sondaggio dell'Istituto Toniolo nel rapporto Giovani 2016, secondo cui 7 giovani, per quanto riguarda i migranti, 7 giovani italiani su 10 sono convinti che i migranti siano troppi, e più del 60% è convinto che rendano il paese più insicuro. Come commentate questa percezione di insicurezza così alta e questa diffidenza? 349-238-6666 per i vostri messaggi via WhatsApp o via SMS, altrimenti comodamente per voi pagina Facebook di Effetto Notte, per voi giorno e notte. Ma partiamo con la giornata. Le elezioni presidenziali in Austria, l'ecologista Van der Bellen è il nuovo presidente, l'ultranazionalista Höfer perde soprattutto per i voti inviati per posta, e Gentiloni commenta un sospiro di sollievo per l'Italia e l'Europa. Economia, per il Fondo Monetario Internazionale la ripresa italiana si rafforza, ma è difficile un calo del debito quest'anno. Calcio scommesse, l'ombra della camorra su 2 gare truccate in Serie B, 10 arresti a Napoli, indagati alcuni calciatori. Pizzarotti replica al Movimento 5 Stelle, la mia sospensione è illegittima e non ho mai avuto nessun inciuccio col PD. La strage di Capaci, Palermo la ricorda nel 30° anniversario, il Presidente della Repubblica dice gratitudine a chi non si è mai scoraggiato. Elezioni americane, ora Trump fa paura, per la prima volta è in testa. Omicidio Meredith, permesso premio per Rudy Gedé, il legale della famiglia Kercher commenta, è amaro pensare che possa uscire dal carcere. L'allarme dell'ONU sull'inquinamento, molte più vittime che con le guerre. Calcio, Conte fa le prime scelte, in attacco Insigne via Pavoletti. Partiamo quindi dalle presidenziali in Austria e quindi dalla vittoria nel secondo turno, come vi dicevo, del leader dei Verdi Alexander Van der Bellen, 72 anni, economista, ex socialdemocratico, che ha prevalso sul candidato dell'ultradestra Höfer col 50,3% e si è registrata un'affluenza record del 72%. Das Ergebnis. Lo sentite Van der Bellen, che ha parlato subito poi in conferenza stampa dopo gli austriaci, ha dichiarato che questa è una grande responsabilità e che vuole essere comunque il presidente di tutti, che ora bisogna parlare dei problemi veri. Capiremo poi, collegandoci direttamente con Vienna, con chi ha seguito questa campagna elettorale, queste elezioni, che cosa siano effettivamente ora attualmente i problemi veri dell'Austria, sottolineando appunto che Gentiloni, come vi dicevo, ha detto che l'Italia e l'Europa con la sconfitta di Höfer tirano un sospiro di sollievo. E siamo all'economia con una notizia che riguarda i nostri conti pubblici e la missione del Fondo Monetario Internazionale in Italia terminata oggi a Roma. È un giudizio sostanzialmente positivo quello che arriva dai tecnici di Washington sull'economia del nostro paese. Le previsioni di crescita sono infatti riviste, seppur leggermente, al rialzo, 1,1% dal precedente 1 e 1,25% dall'1,1% per il 2017 e 2018. La ripresa, riconosce comunque il Fondo Monetario Internazionale, rimane modesta e i rischi sono orientati al ribasso per la volatilità dei mercati finanziari, il rischio Brexit e l'emergenza immigrazione. Ed ancora, il percorso di crescita intrapreso dall'Italia riporterebbe a livelli di produzione pre-crisi solo verso la metà degli anni 2020. Quanto ai conti pubblici, l'FMI avverte l'attuale rilassamento in termini strutturali potrebbe comportare il rischio di una futura restrizione fiscale. Un calo del debito italiano da quest'anno è difficile. Capitolo riforme, più decisione su quelle strutturali è importante, invece non compromettere la sostenibilità del sistema pensionistico. Infine le banche, i crediti deteriorati, spiegano dal Fondo Monetario, sembrano essere in via di stabilizzazione, vanno tutelati i clienti retail però e servono comunque più controlli. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E c'è poi l'inchiesta in primo piano su calcio e camorra. Ci sono stati 10 arresti a Napoli per partite truccate in Serie B. Sono stati indagati anche alcuni calciatori, indaga infatti anche la Federazione Italiana Calcio. E per la cronaca giudiziaria ci sono, appunto, dicevo, anche questi calciatori. Ci colleghiamo più tardi con Napoli. Per la politica, col caso Pizzarotti, il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, vi ricordate, nei giorni scorsi è stato sospeso dal Movimento 5 Stelle e alla fine oggi in conferenza stampa qualche sassolino dalla scarpa se l'è tolto, il sindaco di Parma, dicendo in 5 pagine di un documento, fitte fitte di argomentazioni politiche e regolamentari, si è difeso dalle accuse di tradimento dei principi dei fondamentali del Movimento 5 Stelle, passando al contrattacco. Dice non solo il non statuto del Movimento 5 Stelle, l'unico regolamento del movimento esistente, non prevede alcuna ipotesi di sospensione, dice, ma anche le controdeduzioni richieste sono un'invenzione, dunque la sospensione, dice Pizzarotti, la mia sospensione è iniqua, illegittima e nulla. E poi torneremo a parlarne in modo più approfondito. Le amministrative di Radio 24. E siamo un'altra puntata del viaggio di Radio 24 sulle amministrative del 5 e 19 giugno. Oggi si parte da Milano. Lei anche a Bonn, Milano, a Gran Milano. Le gru smontano i padiglioni, i cantieri annunciano nuove fermate del metrò e sotto al Duomo molti più ombrellini vengono innalzati per guidare turisti da ogni parte del mondo. Un anno dopo l'apertura di Expo, Milano resta a place to be, secondo la definizione del New York Times, mentre lo spray urticante di un passeggero della linea rossa e arresti di presunti jihadisti ricordano alla capitale economica d'Italia l'incubo terrorismo. Com'è bella la città! 9 candidati. Dati sindaco, una sola donna, per un voto che a detta di più osservatori potrebbe avere ripercussioni pure su Palazzo Chigi. La coalizione di centro-sinistra sostiene il vincitore delle primarie, Beppe Sala, 57 anni, ex Mister Expo, voluto fin dall'inizio da Matteo Renzi. Quella di centrodestra invece a Milano si ricompatta nel segno di Stefano Parisi, 59 anni, ex city manager della giunta Albertini. E in una campagna elettorale che dagli scontri sulla moschea al futuro dell'area Expo è passata alle carte bollate sulla presunta incandidabilità di Sala, sempre più decisivi in un eventuale ballottaggio sono diventati gli altri candidati a Palazzo Marino, da Basilio Rizzo a Natalia Zaretto guardando a sinistra, da Nicolò Mardegan a Luigi Sant'Ambrogio in area centrodestra, passando per il radicale Marco Cappato o per Fuxia People di Maria Teresa Baldini. In ogni caso, archiviata la rivoluzione arancione di Giuliano Pisapia, Milano si prepara ad entrare in una nuova era. Bella la città, come grande la città. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Presidente della Commissione Antimafia in Sicilia oggi al Parco dei Nebrodi nel giorno del 24esimo anniversario della strage di Capaci. La memoria e l'impegno concreto contro la mafia, anzi contro le mafie, sono i due volti dello Stato nel 24esimo anniversario della strage di Capaci, in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 uomini della scorta. La memoria va in scena a partire dalle 9 del mattino nella solita affollata aula bunker del carcere Ucciardone a Palermo, dove 30 anni fa si celebrò il maxi processo, per concludersi alle 17.58 in punto davanti all'albero Falcone, dove migliaia di persone sono arrivate come ogni anno. Una giornata intensa di cui il capo dello Stato si Sergio Mattarella dice: il 23 maggio è una data incancellabile per gli italiani. La memoria della strage di Capaci è iscritta con tratti forti nella storia della Repubblica e fa parte del nostro stesso senso civico. È oltre 150 km a est, a Sant'Agata di Militello, in provincia di Messina, lo Stato è tornato a mostrare il volto di chi sa reagire con la visita della Commissione Antimafia al Parco Tenebrodi, presieduto da Giuseppe Antoci, bersaglio nei giorni scorsi di un attentato di stampo mafioso. L'applicazione del protocollo per togliere terreni ai mafiosi ha provocato una reazione, ma quel protocollo è diventato anche un modello da seguire. Il ministro delle risorse agricole Maurizio Martina ha annunciato che le linee guida tracciate dal protocollo saranno applicate ora anche altrove per dire stop alle infiltrazioni mafiose in agricoltura, da sempre considerata un terreno fertile per fare affari. Nino Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palermo. Occupiamoci anche di migranti, perché il tema che domina i lavori del vertice umanitario mondiale iniziato oggi a Istanbul. We are one humanity with a shared responsibilities. È stato il segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon ad inaugurare ad Istanbul la prima delle due giornate del vertice umanitario mondiale, a cui ha partecipato anche il Papa con un messaggio. Realizzato per la prima volta nella storia, il summit si propone di trasformare il modo in cui il mondo risponde alle crisi umanitarie. Di fronte a 5.200 partecipanti, tra cui 65 capi di Stato, Ban Ki-moon ha esortato a ridurre della metà il numero degli sfollati nel mondo, che sono 60 milioni, entro il 2030 e a trovare soluzioni a lungo termine. C'è bisogno di una distribuzione più equa delle responsabilità, ha dichiarato il padrone di casa, il presidente turco Erdogan, sottolineando come la Turchia per i profughi abbia speso oltre 10 miliardi di dollari a fronte dei soli 455 mila dollari di aiuti ricevuti. Ha promesso maggiori fondi per gli aiuti umanitari nel suo intervento la cancelliera tedesca Angela Merkel, esortando ad un approccio comune alla crisi umanitaria. A margine del summit, faccia a faccia tra i leader turco e tedesco, ho detto al presidente Erdogan che in Turchia serve un Parlamento più forte, ha fatto sapere poi la cancelliera, ribadendo che per ottenere la liberalizzazione dei visti Ankara deve prima soddisfare tutte le condizioni richieste da Bruxelles. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi le elezioni americane, i sondaggi così lontani dalle presidenziali non significano nulla, lo dice la frontrunner democratica, la candidata ormai ufficiale dei democratici Hillary Clinton, che ha liquidato in questo modo con la NBC i dati di alcuni sondaggi che vedono il suo rivale repubblicano Donald Trump in progressivo recupero o addirittura in sorpasso su di lei. L'ex First Lady ha respinto anche l'ipotesi che i superdelegati, finora schierati in larghissima maggioranza con lei, possano cambiare idea, schierandosi invece con l'altro democratico Bernie Sanders. E su questo tema vi volevo chiedere appunto anche questo a proposito delle vostre opinioni sulla pagina Facebook di Effetto Note oppure al 349-238-6666, che ne pensate di un possibile sorpasso di Trump e di un'eventuale vittoria? Ce lo chiederemo più volte naturalmente sino a novembre. Questo è il momento in cui Trump sembrerebbe che possa addirittura sorpassare Hillary Clinton. E poi sempre negli Stati Uniti la Corte Suprema americana ha annullato oggi la sentenza di condanna a morte inflitta, pensate, nel 1987 Timothy Foster, un nero accusato di aver ucciso un'anziana donna bianca, dopo che il suo avvocato ha provato, l'avvocato di quest'uomo, che la giuria di allora, composta da 12 bianchi, fu selezionata con criteri razzisti. La decisione presa a maggioranza 7-1 è destinata a far discutere in un paese che 30 anni dopo è sempre alle prese col problema del razzismo nella scelta dei giurati. Ora in Italia, cronaca, un permesso premio di 36 ore è stato concesso a Rudy Ghedè, che sta scontando 16 anni di reclusione per l'omicidio di Meredith Kercher nel carcere di Viterbo. Il provvedimento è stato adottato dal Tribunale di Sorveglianza di Roma. Ghedè lascerà il carcere nelle prossime ore per recarsi in una cooperativa impegnata nel recupero dei detenuti, dove rimarrà fino al momento di tornare in cella. E c'è un commento del legale della famiglia Kercher che dice: amaro pensare che Ghedè possa uscire dal carcere, ma l'ordinamento penitenziario lo permette. E c'è da segnalare purtroppo questo allarme dell'ONU, secondo il quale fa più morti l'inquinamento che la guerra. Nel 2012 in tutto il mondo i decessi per l'ambiente degradato sono stati 12,6 milioni, quelli per conflitti quasi 54 mila. Le vittime dell'inquinamento sono state 234 volte quelle delle guerre, i conti li ha fatti appunto l'Agenzia delle Nazioni Unite per l'Ambiente e l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e li hanno presentati in un rapporto all'Assemblea dell'ONU sull'ambiente a Nairobi in Kenya. E il rapporto Ambiente Sano, Gente Sana rivela che le aree del mondo più colpite dall'inquinamento sono l'Asia sud-orientale e il Pacifico occidentale. Ancora due notizie, questa che direbbe che dal sole è arrivata la scintilla che ha dato origine sulla vita, che ha dato vita sulla Terra. Le scintille della vita sulla Terra potrebbero essere state delle super eruzioni solari, ossia dei giganteschi getti di materia scagliata dal sole verso il nostro pianeta, così violenti da penetrare attraverso il campo magnetico, bombardando l'atmosfera con particelle che hanno favorito la comparsa poi dei primi esseri viventi. Questo lo indica la ricerca pubblicata sulla rivista Nature Geoscience, è basata sull'analisi di stelle giovanissime come era il Sole 4 miliardi di anni fa. Quindi questa è un'altra ipotesi, che siano stati questi getti di materia scagliati dal Sole. Per chiudere il calcio, con Conte che fa le prime scelte, il CT della Nazionale in attacco Insigne via Pavoletti, quindi ha indicato i 30 preselezionati al momento. Mentre ora vorrei indicare, prima della viabilità, alcuni dei vostri messaggi a voce, li dico naturalmente, sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Per esempio, vi sottoponevo all'inizio questo, non solo la questione Trump, ma anche questo sondaggio dell'Istituto Toniolo, rapporto giovani 2016, secondo il quale, a proposito del tema migranti, 7 giovani italiani su 10 sono convinti che i migranti siano troppi e più del 60% è convinto che rendano il paese più insicuro. Che ne pensate di questi dati? Sicuramente non lasciano indifferenti. Enrico dice: esiste una destra cinica e xenofoba che vorrebbe muri e pistole, esiste una sinistra salottare, utopista, che predica il vogliamoci tutti bene, ci vorrebbe una via di mezzo, ma il buon vecchio e sano stato liberale, dove diritti e doveri per tutti dovrebbero valere, non solo essere predicati, dice, questi valori. Ilaria: credo sia l'espressione del profondo disagio di una generazione alla quale è stata sottratta ogni certezza, finanche ideologica, e l'insicurezza genera la paura, soprattutto del diverso, dice Ilaria. Continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte o al 349-238-6666, viabilità. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci insieme dopo poco, Roberta Giordano sempre con voi, continuano anche i vostri messaggi ad arrivare come ogni sera sulla pagina Facebook di Effetto Notte o anche al 349-238-6666, che è il numero per gli sms e anche per i whatsapp. Tra le domande questa sera, una era su Trump, che secondo alcuni sondaggi sta anche superando Hillary Clinton nelle presidenziali, nella campagna per le presidenziali americane. Che effetto vi farebbe appunto un Trump presidente? Ma vi dicevo, su questo poi continueremo naturalmente a interrogarci sino a novembre, quando ci saranno poi effettivamente le presidenziali. Mentre una cosa anche che mi premeva questa sera era sottoporvi questo sondaggio dell'Istituto Toniolo nel rapporto Giovani 2016, secondo cui, a proposito del tema migranti, 7 giovani italiani su 10 sono convinti che i migranti siano troppi e più del 60% dei giovani è convinto che rendano il paese più insicuro. Sto guardando altri dati, secondo questo rapporto il 60% tra i 18enni e i 32enni intervistati ritiene che la presenza dei migranti peggiori l'economia, il 42,3% pensa che portino criminalità diffusa, il 18,2% ostile, il 39,7% è diffidente. Secondo voi come commentate, insomma, questi dati? Perché tutta questa percezione di insicurezza e di diffidenza da parte dei giovani, addirittura oltre il 60%? Intanto, mentre voi scrivete i vostri messaggi, per esempio leggo questo di Maurizio che dice: niente di nuovo sotto il sole, anni fa, quando c'era ancora un po' di lavoro, dovevano servire per fare i lavori più umili e faticosi che non volevano fare gli italiani, adesso sono invece una minaccia. Succede così dalla notte dei tempi, il diverso, lo straniero, o si annienta o si schiavizza, dice Maurizia. Poi leggerò anche gli altri messaggi, per esempio dice Giulio: troppi immigrati, troppi pericolosi, sono in ogni paese, ormai un'invasione, secondo Giulio. E adesso tra poco parleremo di un paese che ha temuto, o per la metà ancora teme, questa invasione, ma prima vi ricordo tutte le notizie più importanti. L'ultradestra scacco in Austria, vince van der Bellen, Höfer sconfitto dai voti dall'estero e Gentiloni, il nostro ministro degli esteri, dice è un sollievo. Ombra della camorra sul calcio, truccate due gare in Serie B, Avellino nel mirino, 10 arresti a Napoli, indagati alcuni calciatori. Renzi difende la ministra Boschi sui partigiani e se vinco, dice, voto ci sarà nel 2018. Intanto Pizzarotti, sindaco di Parma, replica alla sospensione e alle accuse del Movimento 5 Stelle oggi in conferenza stampa. Intanto Fassina gela Giachetti a Roma. Il Fondo Monetario Internazionale promuove l'Italia per il PIL, prevede 1,1%, ma la crescita è ancora modesta. E poi Palermo, che oggi ha ricordato la strage di Capaci. Stati Uniti 2016, ora Trump fa paura, per la prima volta nei sondaggi è in testa su Hillary Clinton. E poi Conte, il CT della Nazionale, che sta facendo le prime scelte in attacco Insigne via Pavoletti, e poi dice sì che è stata ufficializzata la lista dei 30 preselezionati per il raduno di Coverciano in vista degli europei. E quindi iniziamo dalle presidenziali in Austria con l'esito del secondo turno, un risultato che probabilmente in molti non si aspettavano. A vincere le elezioni diventa è stato il leader degli ecologisti Van der Bellen, e in questo modo ha sconfitto l'ultranazionalista Norbert Höfer, che sembrava dato per favorito almeno nel primo turno. Ha vinto Van der Bellen con il 50,3% dei voti contro il 49,7% del rivale, e c'è stato un distacco in pratica di 31.000 voti. Sembra che abbia vinto soprattutto per i voti per corrispondenza, quelli che venivano dall'estero. E va detto anche che c'è stata un'affluenza record in queste elezioni: il 72,7% degli aventi diritto hanno votato, se pensiamo che nel 2010 per il presidente uscente Fischer c'era stato il 53,6%. Gentiloni, ve l'ho fatto sentire, il ministro degli esteri, ha detto è stato un sospiro di sollievo per l'Italia e per l'Unione Europea. Sentiamolo a Sky TG24. Ha vinto il candidato verde, l'Europa tira un sospiro di sollievo? Ah, direi di sì, certamente lo tiriamo anche noi italiani, perché indubbiamente l'Austria è uno dei paesi con i quali siamo più collegati, paese vicino, paese amico, e il fatto che abbia vinto Van der Velden è certamente una notizia positiva. Vittorio Darold del Sole 24 Ore da Vienna, che ha seguito questa campagna e queste elezioni. Vittorio, quindi chi è Van der Bellen e anche che cosa significa? Quindi era nell'aria o davvero è stata una sorpresa il fatto che vincesse lui, anche se proprio sul filo, insomma siamo al 50, qualcosa contro il 49,7%? No, assolutamente è stata una rivincita, una rimonta, un tentativo proprio al photo finish, perché 30.000 voti sono veramente un'inezia, ha vinto per una manciata di voti, quindi assolutamente una vittoria abbastanza inaspettata, perché il punteggio ieri sera, quello delle urne, era molto a favore, con 140.000 voti a favore di Norbert Hofer, quindi la partita era decisamente a favore dell'estrema destra, e sarebbe stato il primo presidente dell'estrema destra nell'Unione Europea dal dopoguerra. Quindi questa era la partita. Gli 800.000 voti non sono tutti voti di chi sta all'estero, ma anche di chi risiede qui e decide di votare tranquillamente per posta. Lo deve dire però due settimane prima, e questo quindi viene poi, tutti questi voti vengono poi appunto depositati e si attende di conteggiarli solo dopo che sono state aperte le urne. Questa era la questione. Quindi vengono conteggiati successivamente, ma molti avevano, anche che sono residenti in Austria, avevano votato direttamente di qui, sono 885.000 voti, proprio perché hanno questa possibilità, e c'erano ad esempio delle manifestazioni sportive dilettantesche, c'era una marcia a Vienna domenica, e molti di quelli che volevano partecipare hanno votato due settimane prima per posta. Ricordiamolo infatti, Vittorio, scusami, che c'è il suffragio diretto, no? Lì è la cittadina, popolazione, sì, che vota direttamente il presidente. Esattamente, è un presidente che ha dei poteri cerimoniali, quindi non ha poteri esecutivi, non ha poteri diretti, non è una repubblica presidenziale, quindi ha semplicemente poteri molto limitati di rappresentanza, però è il capo delle forze armate e può sciogliere il Parlamento in alcuni casi, e può anche appunto dimettere il primo ministro, quindi ha dei poteri seppure limitati, ma insomma abbastanza importanti, ed è votato direttamente dal popolo. Quindi è questo quello che Hofer, se avesse vinto, avrebbe interpretato in una maniera estensiva, dicendo che avrebbe ad esempio partecipato direttamente ai vertici europei, come fa il presidente francese, quindi insieme al primo ministro. Questo sarebbe stata un'interpretazione estensiva, ma proprio basandosi sul fatto che il presidente della Repubblica Federale Austriaca è un presidente eletto direttamente dal popolo. Vittorio, che presidente, che politico è Van der Bellen? Van der Bellen è assolutamente un outsider, è un ex socialdemocratico che ha lasciato il partito, si è messo al servizio della causa dei Verdi, ha portato al raddoppio questo partito nel giro di 10 anni e quindi come outsider, in qualche modo, come una persona non interna al sistema, ha sfidato gli altri candidati ed è stato a questo punto il vincitore, quindi una personalità molto stimata, è un professore di economia della Università di Vienna ed è egli stesso figlio di migranti, perché i suoi genitori sono scappati dalla Russia ai tempi appunto della rivoluzione sovietica e dall'Estonia, quindi è un passato di migrante, questo lo ha contraddistinto per un'Austria multietnica e quindi si è contrapposto fortemente a Hofer, quindi che invece è per l'identità della patria, dell'Heimat come la chiamano qui, e quindi c'è stato questo contrasto molto forte. Lui quindi è un presidente che in qualche modo è molto più europeo, sebbene non ha detto che non voterà il TTPI, quindi questo nuovo accordo con Stati Uniti e Europa. Esatto, perché è contrario, essendo un verde. Quindi è una situazione molto, molto fluida, nel senso che per la prima volta i due partiti storici, il socialdemocratico e i popolari, non sono rappresentati, quindi non hanno avuto candidati che hanno superato il primo turno. Quindi è una partita, anche qui, tra due outsider, due personalità che erano rimasti ai margini della vita politica, l'estrema destra e i Verdi. In qualche modo i Verdi qui hanno salvato diciamo l'Austria da diventare il primo partito della Unione Europea con un presidente di estrema destra, ma a questo punto adesso verranno a chiedere appunto in qualche modo diciamo qualche ritorno di questa loro forte capacità di essere intervenuti a salvare gli equilibri, diciamo, tradizionali del paese. Vittorio, anche se bisogna dire che, come ha detto anche Gentiloni, ma lo stesso neopresidente, che l'altra metà, una metà dell'Austria, ha votato per l'altro candidato, no, dell'estrema destra, anche se c'è Salvini, a proposito dell'estrema destra, il leader della Lega, che dice: provo pena per quei giornalisti italiani che parlano di un voto per una estrema destra xenofoba, populista, razzista e ultranazionalista. Da quando chiedere il rispetto delle regole è estremismo? 9 giornalisti italiani su 10 non sono uomini, sono Serbia, dirà che possa avere ragione o torto, non sono uomini, molti perché anche sono donne, diciamo, giornalisti, quindi per quello che non sono uomini. Vittorio, senti, ma al di là di questo, è giusto dire estrema destra? Cioè, come la dobbiamo definire quella di Hofer? Ultradestra, estrema destra, ultranazionalista? Sì, sono nazionalisti, assolutamente, si chiamano liberal nazionali, ma sono molto nazionalisti, sono in realtà estremi nella loro difesa dell'identità austriaca, quindi della Heimat, della patria, sono per rimettere i confini, per rifare i controlli al Brennero, questo sarebbe stato un elemento molto critico per noi, sono addirittura per il referendum in Alto Adige per ritornare nell'Austria, quindi sono l'annessione per, del Sud Tirolo, diciamo, di nuovo delle frontiere dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi si tratta di un partito decisamente di estrema destra che quindi ha tutte quelle caratteristiche di appunto difesa dell'identità nazionale, culturale, storico e quindi con anche una certa bellicosità non solo nelle parole ma anche nei fatti. Quindi effettivamente è una situazione, si può dire, però, di estrema, devo dire, sì. Il paese è un paese che ha avuto 1 milione di migranti che sono passati l'anno scorso, ha avuto 90.000 richieste di asilo in un paese che ha 8 milioni di abitanti, quindi è stata veramente una situazione di grave crisi per un piccolo paese che si è sentito accerchiato e in grave situazione, forse anche percepito in questo modo, ma comunque hanno avuto, ricordiamo, 50% è in questo momento è per l'estrema destra, l'altro 50% si è in qualche modo raccolto intorno a questo candidato che però è un candidato che fino al primo turno aveva avuto solo il 22%, quindi è un candidato che in realtà è un candidato di bandiera per tutta una serie di altri forze politiche che all'inizio non lo avevano sostenuto. Vittorio, abbiamo ancora pochi secondi, se riesci a dire proprio in modo secco, siccome ha detto il neoeletto presidente, adesso affrontiamo i problemi veri, dinne uno dell'Austria che deve essere affrontato tra i problemi veri. Sicuramente abbiamo il problema dell'Europa, della migrazione e dei confini, quindi dovrà in qualche modo cominciare a chiarire, ad esempio con noi, se metterà questi controlli al Brennero, perché per noi sarà sennò un vero problema, e sicuramente riformare il welfare, perché qui hanno un welfare che effettivamente in qualche modo ha troppi eccessi e deve essere un po' rivisto, perché anche a favore appunto di classi veramente che hanno bisogno, e non solo di qualcuno che lo usa appunto venendo a in qualche modo insomma a utilizzare in maniera eccessiva quello che qui viene fatto. Quindi una revisione del welfare. Grazie Vittorio Darolda da Vienna. Ciao Vittorio. Grazie a voi. Buona continuazione. Noi adesso ci dobbiamo lasciare per una breve pausa di ricreazione, ma come sempre a questo punto, però ancora i vostri messaggi. Alberto sulla pagina Facebook di Effettonote dice: commentiamo che ne abbiamo abbastanza dell'importanza di giovinotti africani nulla facente che, accettata o meno la domanda di asilo, rimarranno a vita sul suolo patrio, e noi li dovremo mantenere a forza di tasse e gabelle. A proposito di questo sondaggio, vi dicevo, dell'Istituto Nio, che dice il 60% dei giovani in Italia li vede con diffidenza e percepisce una certa insicurezza. Poi un altro ascoltatore: manca il lavoro, su WhatsApp, la gente deve mangiare, spesso non si accontenta del solo cibo, i giovani italiani possono ancora contare sui, vediamo di aprire questo WhatsApp, sui genitori, mentre gli immigrati devono arrangiarsi, questa necessità produce un numero di reati più alto con conseguente senso di insicurezza. Continuate, pagina Facebook di Effettonote oppure al 349-238-6666, ci sentiamo a breve. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS, e in video su radio24.it e su rds.it. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice, cari ascoltatrici e cari ascoltatori da tutto il mondo, perché ogni tanto vedo qualcuno dall'Argentina, dalla Germania, dal Lussemburgo, dall'Australia anche. Scrivete complimenti, insomma, per chi vuole aggiornarsi tutte le sere qui a Effetto Notte. Non perdete un solo istante, e anche potete mandare i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure gli sms e WhatsApp al 349-238-6666. L'argomento che vi sottoponevo questa sera, oltre a quelli che sto trattando man mano con gli ospiti, è questo sondaggio dell'Istituto Toniolo, che ha, come tutti gli anni, elaborato questo rapporto giovani 2016. Secondo questo rapporto, a proposito del tema migranti, 7 giovani italiani su 10 sono convinti che i migranti siano troppi, e più del 60% è convinto che rendano il paese più insicuro. Vi chiedo che cosa, come commentate questi dati, questa percezione di insicurezza così alta e questa diffidenza. Davide scrive: alla luce dei dati che ha appena fornito ho qualche speranza in più sulle nuove generazioni, dice. Poi Roberto: io sono per una società multietnica, ma le regole bisogna rispettarle, credo che la riforma principe era quella della giustizia, pene certe e i recidivi rispediti al proprio paese, dice, solo in questo modo potrà esserci una vera integrazione. Poi dice invece Emanuele: 7 su 10, forse questo paese ha ancora una speranza nonostante i vecchi buonisti fessi o in malafede. E c'era anche un altro messaggio, quello di Alessandro, che dice: 7 giovani italiani su 10 sono ignoranti funzionali, questo è peggio di qualunque immigrazione. Quindi i vari vostri punti di vista su questo tema. Intanto, prima di passare al prossimo argomento, vi ricordo quali sono le notizie più importanti se avete acceso adesso anziché puntualmente alle 21. Le elezioni presidenziali in Austria, ne abbiamo appena parlato, l'ecologista Van der Bellen è il nuovo presidente, l'ultranazionalista Höfer perde soprattutto per i voti inviati via posta, e Gentiloni commenta: un sospiro di sollievo per l'Italia e l'Europa. Economia. Per il Fondo Monetario Internazionale la ripresa italiana si rafforza, ma è difficile un calo del debito quest'anno. Calcio scommesse, l'ombra della camorra su due gare truccate in Serie B, 10 arresti a Napoli, indagati anche alcuni calciatori. Pizzarotti replica al Movimento 5 Stelle, ne parleremo tra pochissimo. La strage di Capaci, Palermo la ricorda nel 24esimo anniversario. Il Presidente della Repubblica dice ci vuole gratitudine verso chi non si è mai scoraggiato. Elezioni americane, ora Trump fa paura per la prima volta in testa. Omicidio Meredith, permesso premio per Rudy Gedei, il legale della famiglia Kercher commenta è amaro pensare che possa uscire dal carcere. L'allarme dell'ONU, dall'inquinamento molte più vittime che con le guerre. A nostro avviso è proprio la procedura della sospensione che non è prima di tutto, come dire, legittima e legittimata, e che quindi non sarebbe neanche da prendere in considerazione. Così parliamo del sindaco di Parma Federico Pizzarotti, che avete appena sentito, che sta dicendo in questa replica alla sospensione del Movimento 5 Stelle che questa sospensione appunto è iniqua perché non è prevista nel regolamento del Movimento. Oggi ha espresso la sua verità dopo appunto la sospensione da parte del Movimento 5 Stelle decisa da Peppe Grillo sul via blog il 13 maggio in seguito all'avviso di garanzia venuto dalla procura di Parma nei confronti di Pizzarotti per abuso d'ufficio per quell'inchiesta sulle nomine al Teatro Regio di Parma. Il Movimento 5 Stelle lo aveva accusato di non essere stato trasparente, cioè di non aver comunicato ai dirigenti del Movimento che era da tempo coinvolto in questa inchiesta. Pizzarotti però oggi ha illustrato in questa conferenza stampa il documento di 5 pagine postato poi anche su Facebook con le sue controdeduzioni, affermando che non ha alcuna efficacia giuridica il provvedimento dei vertici nazionali del Movimento deciso giorni scorsi nei suoi confronti. Dice il non statuto è l'unico documento riconosciuto come regolamento del Movimento 5 Stelle, in esso non si parla di sospensione, si parla invece di requisiti che noi abbiamo rispettato. Poi è vero, dice, c'è un regolamento mai ratificato e quindi senza validità, comunque non abbiamo violato neppure quanto viene indicato in quel documento. Dice non ho nascosto nulla sull'avviso di garanzia. Sentiamo anche questo passaggio. Il non statuto è l'unico documento riconosciuto dal punto di vista anche del processo amministrativo che l'ha generato per essere riconosciuto come regolamento. E nel non statuto non si parla di procedure di sospensione, si parla di requisiti che potrete andare a verificare, noi abbiamo ancora saldamente tutti, quindi non si è assolutamente violato nessuno di questi principi. E coinvolgo su questo Pietro Salvatori, commentatore politico della Huffington Post. Ciao Pietro, bentornato. Buonasera a te, buonasera agli ascoltatori. Che idea ti sei fatto di questa vicenda? Abbiamo detto più volte che Pizzarotti ha perso abbastanza presto, quasi subito dopo la sua nomina a sindaco di Parma, il consenso del Movimento 5 Stelle, è entrato abbastanza subito in rotta di collisione, no? Dalla storia dell'impianto, dell'inceneritore, che era stato il suo cavallo di battaglia della campagna elettorale, poi ha detto che non aveva potuto fare nulla per fermarlo, e poi Grillo che aveva cominciato a chiamarlo Capitan Pizza. Insomma, siamo arrivati a questo punto, come pensi che possa procedere questa faccenda? Ma Pizzarotti è un corpo estraneo ormai da tempo al Movimento 5 Stelle, e la storia dell'avviso di garanzia è stata una palla colta al balzo dai vertici, da Beppe Grillo, dall'entourage della Casa Legge Associati per arrivare alla resa dei conti. Lui ovviamente sa perfettamente di essere un corpo estraneo e tutta questa sua manovra di controdeduzioni, minacce o meglio annunci di ricorsi al TAR, elenco di quali sono i documenti su cui si basa la sua sospensione o meno, è evidentemente una strategia per rendere il più complicato possibile il suo allontanamento dal Movimento. Una strategia che punta a creare più problemi possibili al Movimento e a non far passare sotto silenzio un provvedimento che comunque lo colpisce direttamente anche ai fini della tenuta della sua maggioranza in giunta e soprattutto ai fini di una ricandidatura l'anno prossimo, che se avverrà senza la copertura del Movimento 5 Stelle sarà ovviamente più difficile, complessa, dice. No? Anche perché lui ha continuato a ripetere, siccome dice spesso mi accusano di avere inciuci col PD, io invece sono sempre stato chiarissimo, il PD è il mio avversario. Beh, insomma, è strano che Pizzarotti abbia inciuci con il PD, anche perché il suo avviso di garanzia arriva da un esposto presentato un esponente del PD. Partito Democratico. È una questione diversa, è che lui da amministratore dialoghi con la regione, con le altre forze politiche nel suo territorio, che è l'Emilia-Romagna, cioè non ci scordiamo che appunto, è un territorio in cui il PD è profondamente radicato, per cui sarebbe strano che lui non avesse rapporti con i democratici. Detto questo, l'inciucio col PD, diciamo il frazionismo, no, come si usava una volta, è un'accusa che nel Movimento 5 Stelle si muove spesso a chi è considerato fuori linea o poco gradito. Pietro dice ancora, Pizzarotti, se verrà revocata la mia sospensione io sarò felicissimo di rimanere a far parte a pieno titolo del partito. Nel caso contrario, se vengo espulso, mi aspetterei reazioni dagli attivisti e non esclude, come avevi detto anche tu, no, di adire alle vie legali, insomma, di portare in tribunale il Movimento 5 Stelle. A me pare che la rottura ormai sia un po' inevitabile. Che dici tu? No, la rottura è già avvenuta, adesso bisogna semplicemente stare a aspettare di vedere quando la sospensione si trasformerà in espulsione. C'è parte del Movimento 5 Stelle, tra cui anche insomma buona parte dei personalità più influenti nel movimento, che suggerisce di aspettare dopo le amministrative per non avere un effetto deflagrante prima del voto di giugno, anche perché alla fine Pizzarotti è un sindaco, per cui si darebbe l'immagine di un movimento che nelle città in cui amministra non è in grado di portare a termine il mandato. Ha fatto scalpore un'intervista all'Espresso di qualche giorno fa di Virginia Raggi, in cui anche lei faceva capire che insomma in qualche modo avrebbe preso suggerimenti, se non ordini, da Milano, da altrove. Insomma, la questione è semplicemente quella, cioè quando arrivare alla decisione dell'espulsione o meno. Già, e attendiamo insomma i prossimi sviluppi. Grazie intanto Pietro Salvatori dell'Affitto Post. Ciao. Grazie Pietro. A voi, buona serata. Buona serata a te. Ciao. Via Belli. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Trump, dice Alfonso, io lo vorrei in Italia con tutto il cuore, così si augura Alfonso. Le notizie più importanti, vi ricordo velocemente: scacco all'ultradestra in Austria, vince l'ecologista van der Bellen, Höfer dell'ultradestra sconfitto dai voti dall'estero, Gentiloni dice è un sollievo, ombra della Camorra sul calcio, truccate due gare in Serie B, Avellino nel mirino, 10 arresti a Napoli, indicati alcuni calciatori, e poi il Fondo Monetario Internazionale che promuove l'Italia con una previsione per il PIL dell'1,1%, ma dice la crescita è ancora modesta. U-Zone, incontro con gli europarlamentari. Nome: Mercedes. Cognome: Bresso. Età: 71. Nata a Sanremo. Eletta in? Nel collegio del Nord-Ovest. Con quanti voti? Un po' più di 100.000. Partito politico: In Italia i Democratici e in Europa il gruppo SND, Socialisti e Democratici. Segni particolari: forse quello che sono una federalista accanita. Quante lingue parla? 3, compreso l'italiano, inglese e francese. Competenze europee in 10 parole. Sono stata presidente del Comitato delle Regioni e presidente dell'Unione Europea dei Federalisti e da sempre lavoro su queste due questioni, il federalismo a livello europeo e quello a livello regionale. Benvenuta nella U-Zone di Radio 24 da Silvia Bernardi. Cosa prevede la nuova strategia UE per la macroregione alpina? Una strategia macroregionale serve per far lavorare insieme territori che in passato sono stati a volte uniti, a volte divisi. Quella per la macroregione alpina comprende attività soprattutto legate all'ambiente, alla connessione, che nelle aree alpine materiale e immateriale, che nelle aree alpine è molto difficile, e poi l'innovazione, lo sviluppo delle piccole e medie imprese. Sussidiarietà e politiche regionali in Europa. La sussidiarietà sussidiarietà vuol dire lavorare il più vicino possibile al cittadino, quindi secondo me a livello europeo una vera sussidiarietà vuol dire arrivare a livello delle regioni e degli enti locali, non fermarsi a quello degli stati. Unione Europea, coraggio o autolesionismo? Sicuramente coraggio, come dice Habermas, se non siamo uniti non faremo parte della storia futura del mondo. Perché l'Europa piace sempre meno? Ma è difficile da dire, credo che quella che piace sempre meno in questo momento sia la politica, però in tempi di crisi la storia ci dice che i nazionalismi e gli egoismi tornano a fare capolino, diventano sempre più importanti e questo credo sia la ragione per cui l'Europa piace poco. Brexit, in sintesi pro e contro. Ma pro potrebbe servire a dimostrare che si sta peggio fuori che dentro l'Europa. Contro, io credo che sia sbagliato che gli inglesi scelgano di andarsene, perché dell'Europa nel bene e nel male fanno sempre parte da sempre. Il suo motto? Il mio motto è quello dell'Europa, uniti nella diversità. Non credo che ci sia nessun modo per stare uniti e per farlo bene, che rispettare le diversità di tutti. Tra 10 anni l'Europa sarà? Eh beh, da federalista io dico sarà uno Stato federale. U-Zone, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus. Le dichiarazioni di questi soggetti, sia pure molto caute dal punto di vista della esplicazione dei fatti, sono comunque dimostrative di un momento di forte contiguità tra ambienti criminali legati al traffico di stupefacenti, in particolare quelli che riguardano Secondigliano, e la loro attività normale. È Filippo Beatrice, procuratore di Napoli, a proposito di un'altra inquietante vicenda di calcio scommesse. Più si gratta e più ne vengono fuori. La Camorra avrebbe corrotto alcuni calciatori di Serie B per truccare i risultati di alcune partite nel campionato del 2014, sulle quali erano state fatte scommesse ingenti, anche sino a 400.000 euro da parte di un clan camorristico del nord di Napoli. Ma ci racconta tutto meglio la nostra Laura Viggiano da Napoli. Laura. Sì, buonasera. I carabinieri, coordinati dalla DDA di Napoli, peraltro seguita dal procuratore aggiunto che iniziò da PM l'indagine passata alla storia come calciopoli, Filippo Beatrice, hanno scoperto un altro giro di combine che al momento riguarda alcune partite dell'Avellino giocate nel campionato di Serie B 2013-2014. Mm. 10 gli arresti eseguiti questa mattina sotto la lente, partite su cui si scommettevano centinaia di migliaia di euro, come hai detto poco fa. Su una in particolare le indagini hanno verificato che sono stati scommessi 400.000 euro e guadagnati 110.000 da Antonio Accurso, ex reggente del clan Vinella Grassi, oggi collaboratore, che ha permesso di decifrare il senso di messaggi e telefonate intercettate e di mettere a fuoco alcune attività del clan. Per Laura, ora, ci sono anche alcuni calciatori, no? Izzo mi sembra anche indagato. Sì, infatti, no? Ci sono alcuni calciatori, l'attuale difensore della Genoa, che era stato appunto chiamato per lo stage della nazionale in vista degli europei, Armando Izzo, che non ha ricevuto misura cautelare. C'è anche il centrocampista della Cireale, Francesco Millesi, che invece è ai domiciliari, come l'ex calciatore Luca Pini. Per loro si ipotizza il reato di partecipazione esterna ad associazione mafiosa. Secondo l'accusa, i calciatori erano stabilmente a disposizione del clan al fine di fare da tramite e corrompere i giocatori professionisti per influenzare fraudolentemente i risultati delle partite di calcio, appunto, del campionato di Serie B, e fornivano un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo. Chiarissimo. Al clan. Laura Viggiano, quindi delle accuse gravissime, purtroppo, che riguardano ancora il calcio, cioè di mezzo la Camorra, peggio di così. Grazie Laura Viggiano da Napoli. E fra tutti ringrazio anche molto per il suo WhatsApp Alessandro da Mumbai, dice Robertina, ci sono anch'io dall'India, pensate, mondiale, effetto notte. Ci risentiamo alle 22.